Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Elezioni di giugno, ancora da definire i concorrenti per comunali ed europee. Domani in aula la legge sui 3 mandati dei sindaci. Centri islamici di Monfalcone, attesa per il pronunciamento del Consiglio di Stato sullo stop ai 2 luoghi di preghiera. Attivo unitario a Udine per le sigle dei pensionati, analizzati i numeri della sanità per proporre correttivi urgenti al sistema. Sicurezza subacquea, accordo tra Fincantieri e Saipem per integrare le attività di navi, sottomarini e droni subacquei. Biathlon, la grande stagione di Lisa Vittozzi, Sappada l'aspetta per festeggiare stasera la sua Coppa del Mondo. Tutti pazzi per il golf, in regione 2500 gli affiliati alla federazione e il movimento diventa anche volano turistico. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Lettige, Rita Micoli. In apertura alla politica, con la discussione aperta all'interno delle forze politiche in vista delle elezioni europee e amministrative di giugno. Qualche ufficialità e molte voci che si rincorrono. Il lotto di concorrenti alle europee e alle comunali in Friuli Venezia Giulia è ancora lontanissimo dall'essere definito, a meno di 3 mesi dall'apertura delle urne fissata per sabato 8 e domenica 9 giugno. Per l'Europarlamento in piena corsa il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani con Fratelli d'Italia. Viene data per scontata anche la corsa della sua collega di Monfalcone Anna Cisint con la Lega insieme all'assessore regionale all'agricoltura Zanier e l'uscente Elena Lizzi, giochi ancora ampiamente da fare nel PD, mentre i 5 Stelle decideranno in una consultazione con la base. Passando alle amministrative, il comune più popoloso è Porcia, che rimane appena sotto i 15.000 abitanti, che quindi comunque non andrà al ballottaggio. E qui la sfida per la riconferma di Marco Sartini è già lanciata, con tanto di nome del sindaco uscente sul simbolo della Lega, già in campo da mesi anche lo sfidante del centrosinistra Mario Bianchini. Tra le altre sfide attese, sotto i riflettori Grado, che va al voto dopo le dimissioni dal Consiglio di tutta l'opposizione e dei consiglieri di Fratelli d'Italia. Anche qui c'è già il nome del candidato a sindaco del centrosinistra, che sarà Guido Corbato, mentre sul fronte opposto la situazione è ancora in evoluzione. Ufficiale anche la corsa di Alessandro Pagotto per guidare Gradisca di Sonzo con il campolargo centrosinistra 5 Stelle. A chiarire il quadro dovrebbe contribuire il Consiglio regionale, visto che domani va in aula la legge che fissa il limite di 3 mandati per i primi cittadini dei comuni da 1.000 a 15.000 abitanti. Per presentare le candidature per le comunali ci sono comunque ancora una 50ina di giorni. La scadenza è fissata per il 6 e 7 maggio. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. È prevista per oggi la pronuncia del Consiglio di Stato, che si riunirà in Camera di Consiglio per decidere nel merito sul ricorso del centro culturale islamico Darus Salam di Monfalcone contro il provvedimento del Comune che ha vietato la preghiera da parte della comunità musulmana nei centri islamici. La comunità si era già rivolta al TAR, che però non ha accolto il ricorso. A fine febbraio il giudice monocratico del Consiglio di Stato aveva sospeso il provvedimento, concedendo una dilazione fino ad oggi, essendo in discussione la libertà di culto e avvicinandosi il periodo del Ramadan. Il Consiglio di Stato poneva però una condizione, un confronto fra le parti, comune e centro islamico, per adottare iniziative e misure idonee ad evitare ogni pericolo per l'incolumità delle persone, confronto che di fatto non c'è stato. Il Comune aveva messo a disposizione 2 aree all'aperto per la preghiera collettiva, che la comunità islamica non ha preso in considerazione, chiedendo un confronto con la sindaca, che però non ha ritenuto di dover discutere ulteriormente la questione. Alla base della decisione del Comune di chiudere la preghiera 2 centri islamici, il fatto che i locali non siano urbanisticamente destinati al culto. Le sigle sindacali dei pensionati sono riunite a Udine per fare il punto su possibili soluzioni alle difficoltà del sistema sanitario del territorio. Per i sindacati dei pensionati di Udine, il sistema sanitario regionale è in preda a un dissesto organizzativo e funzionale che chiede correttivi urgenti. CGL, CISL e UIL ritengono che sia passato il momento delle giuste critiche, per arrivare invece unitariamente a proposte da avanzare per riattivare un sistema le cui basi facciano riferimento al comparto pubblico, con una funzione universale a garanzia di tutti i cittadini. Se ne è discusso in un attivo unitario che ha analizzato le competenze compatibilità finanziarie, le piante organiche, le liste d'attesa, la medicina territoriale di prossimità e non per ultima l'integrazione sociosanitaria. Da scongiurare un punto di non ritorno che a loro avviso sta per imboccare la sanità del Friuli Venezia Giulia. Alfredo Gon della UIL Pensionati. Innanzitutto smaltire tutte le prenotazioni che vengono fatte, quindi ridurre i tempi di attesa, ridurre praticamente i tempi di attesa anche con i medici, con le visite specialistiche. Negli ospedali praticamente c'è una carenza enorme di personale, quindi bisogna riaprire di nuovo i concorsi e le assunzioni, non certo con i medici a gettone. Gli fa eco Flavia Blasic della CISL. Vogliamo puntare di nuovo sull'invecchiamento attivo, riguardo soprattutto alla prevenzione, perché attraverso l'invecchiamento attivo si può arrivare comunque anche a un risparmio della spesa sanitaria, perché purtroppo, siccome la popolazione sta invecchiando, questo sarà un problema dei prossimi anni anche per i nostri giovani, perché col lavoro discontinuo, lavoro precario, ci saranno meno contributi, quindi meno soldi per il welfare e per la sanità. Per i pensionati CGL, Natalino Giacomini. Dare avvio alla copertura dei servizi territoriali. Non possiamo dimenticarci il vuoto assoluto che c'è sul territorio. Serve personale in grado di interagire direttamente con le persone, a partire anche dai medici di medicina generale, la cui assenza oggi produce il fatto che circa 50.000 abitanti nella provincia di Udine non hanno il medico di riferimento. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Memorandum d'intesa tra Fincantieri e Saipem, leader nelle infrastrutture per il settore energetico onshore e offshore, per esplorare la possibilità di cooperazione commerciale e industriale nell'ambito dei veicoli subacquei autonomi e della relativa integrazione con unità di superficie e subacquee. Siglato a Palazzo Marina, sede dello Stato Maggiore della Marina Militare, è diretto a favorire la partecipazione delle due società a programmi nell'ambito della sorveglianza e controllo di infrastrutture critiche subacquee e alle attività di soccorso. La collaborazione prevede l'integrazione tra navi di superficie e sottomarini realizzati da Fincantieri e il programma di sviluppo dei droni drone di Sonsub, centro di eccellenza di Saipem che realizza tecnologie e soluzioni subacquee. Saipem è infatti la prima società al mondo ad aver qualificato e commercializzato droni sottomarini residenti autonomi per attività di intervento e di ispezione fino a 3.000 metri di profondità, progettati e industrializzati fra Marghera e Trieste, che sono già stati impiegati per le attività di controllo e manutenzione delle infrastrutture sottomarine nel mercato energetico offshore al servizio di importanti compagnie energetiche. In corso a Trieste un confronto tra le aziende digitali che, come INSIEL in Friuli Venezia Giulia, operano a fianco della pubblica amministrazione. È alle battute finali d'incontro fra 10 paesi membri dell'Unione Europea rappresentati da Euritas, l'associazione delle aziende di tecnologia e comunicazione che lavorano a fianco delle amministrazioni pubbliche. Per la prima volta a ospitare l'incontro è INSIEL nella sede centrale di Trieste. Due giorni di lavoro in cui si è discusso soprattutto di intelligenza artificiale e anche di sostenibilità digitale. In particolare sul tema dell'intelligenza artificiale è stata prodotta una relazione condivisa presentata anche alla Commissione europea per promuovere un'azione di lobby condivisa tra tutti gli Stati membri per proteggere i cittadini dai pericoli dell'intelligenza artificiale, ma senza rinunciare alle grandi opportunità di questa nuova tecnologia, come ad esempio la capacità di elaborare grandi quantità di dati, per esempio quelli sanitari, in poco tempo e accelerare così la ricerca scientifica. Euritas dà servizi a 113 milioni e 300 mila cittadini europei e rappresenta 27 mila lavoratori appartenenti al network e fattura complessivamente circa 5 miliardi e 500 milioni di euro l'anno. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca si è conclusa con l'arresto all'aeroporto di Roma Fiumicino, la fuga del presunto secondo responsabile della rapina avvenuta il 18 luglio dell'anno scorso a Pozzuolo del Friuli ai danni di due anziani, fratello e sorella. Scoperto, uno dei due ladri che si era intrufolato nella loro abitazione per darsi alla fuga li aveva spinti e fatti cadere entrambi a terra. L'uomo è stato individuato in Romania dall'Interpol e trasferito in Italia su mandato di arresto europeo dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Udine. Il complice era stato arrestato ad agosto dopo essere stato intercettato nel Lodigiano. I due sono chiamati a rispondere di rapina pluriaggravata in concorso. Si annunciano controlli intensificati sulle strade in vista delle prossime festività di Pasqua. Negli ultimi giorni la stradale di Udine ha fermato in A4, nell'area di servizio di Gonars, un'auto a bordo della quale viaggiava una famiglia rumena. Dopo un rapido controllo si è scoperto che a carico del capofamiglia era stata disposta un'ordinanza di custodia in carcere dal tribunale di Monza per il mancato rispetto di precedenti misure cautelari. L'uomo è stato trasferito nel penitenziario di Udine. Riconoscimento all'Associazione per le malattie respiratorie AMAR, questa mattina la cerimonia a Trieste. 20 anni a fianco dei malati, combattendo contemporaneamente le malattie respiratorie, facendo rete con altre associazioni, dando supporto alla ricerca scientifica, aiutando i familiari dei pazienti. 20 anni di attività dell'AMAR, Associazione Regionale Malattie Respiratorie, premiati con il sigillo 300° di Trieste, conferito dalla vice sindaca Serena Tonel al presidente Stefano De Colle. La nostra attività consiste soprattutto in un rapporto stretto, un legame stretto con il reparto di pneumologia per quanto riguarda le attività di supporto alle persone che lì sono ricoverate, degenti, poi vengono dimesse e quelle che rimangono in cura. Poi abbiamo queste piccole economie per acquisto attrezzature sempre di carattere medico, su indicazione da parte dei medici, e soprattutto quello che ci spinge di più è dare un contributo alla ricerca, perché questo può essere fondamentale, come l'abbiamo visto durante il Covid. Si cura meglio dove si fa ricerca, gli ha fatto eco Marco Confalonieri, direttore di pneumologia di Asugi, che ricorda l'uso del cortisone per combattere la pandemia. All'inizio l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo aveva sconsigliato, ma grazie a ricerche fatte e pubblicate anni prima, la pneumologia giuliana ha da subito utilizzato i cortisonici nelle polmoniti Covid, riportando una mortalità molto bassa rispetto ad altre aree con un andamento epidemiologico simile. Nei mesi successivi l'OMS cambiò la raccomandazione sui cortisonici, suggerendoli per le forme gravi con insufficienza respiratoria, insieme alle vaccinazioni che contribuirono a ridurre la mortalità. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. La CGIL di Trieste denuncia: il silos è una vergogna per la città, ma riconosce anche che il velo dell'indifferenza si sta squarciando. E un segnale positivo arriva anche dalla tappa triestina delle Giornate della Vista. Il silos nel quale sono costretti a vivere i migranti è una vergogna per Trieste, occorrono subito soluzioni per l'accoglienza. È la presa di posizione della CGIL di Trieste che denuncia la vergogna di una situazione non gestita da chi dovrebbe farlo e sottolinea come solo l'arrivo del Santo Padre in città sembra possa portare a una risposta. Dietro alla mancata soluzione per la CGIL ci sono il deteriorarsi delle relazioni sociali e la continua campagna tesa ad alimentare quelle paure collettive che portano alla richiesta di un maggior controllo sociale, anziché proporre un'azione organica di governo mirata alla risoluzione di processi complessi come quelli legati al tema dell'immigrazione. Il sindacato parla di responsabilità politica nel senso più ampio del termine, e di spia allarmante da un lato della crisi delle istituzioni, dall'altro dello stato di impotenza dei cittadini stessi e del declino della democrazia. Ma il sindacato riconosce anche l'esistenza di uno spiraglio, considera infatti positivo che negli ultimi mesi a Trieste si sia squarciato quel velo invisibile di indifferenza. Grazie anche alle dichiarazioni e alle azioni messe in campo dal Vescovo, da cittadini e da varie associazioni che assieme stanno richiedendo una soluzione non più rinviabile per una città che vuol definirsi civile. E un segnale di attenzione arriva anche dalla tappa triestina delle Giornate della Vista, promosse dalla fondazione di un'azienda leader nel campo dell'occhialeria con la Caritas diocesana. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo: il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a nuvoloso in montagna, le temperature delle 11, a Trieste 16 gradi, a Gorizia 16,5, a Pordenone e Udine 15, a Tolmezzo 14 gradi, a Forni di Sopra 13,5, Tarvisio 13, Sappada 10,5, Piancavallo 7,5, sul Monte Zoncolan 4 gradi, sul Monte Zoncolan 6 gradi, sul Lussari 4, sulla costa a Lignano 16 gradi, grado 15,5. Queste le previsioni: sulla costa cielo poco nuvoloso, sul resto della regione cielo variabile, sulla fascia prealpina e qualche zona di pianura sarà possibile qualche rovescio nel tardo pomeriggio. Offri un caffè buonissimo, progetto di solidarietà lanciato da qualche anno da ABC, l'Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo Garofalo di Trieste. I risultati dell'ultima campagna sono stati resi noti poco fa in una conferenza stampa nella sede di Confcommercio Trieste. Ce li ha illustrati in questa breve intervista la direttrice di ABC, Giusy Battain. La partecipazione a Offri un caffè buonissimo è stata davvero massiccia. 133 esercizi pubblici e commerciali su Trieste hanno aderito e hanno avuto la cassettina all'interno della quale si potevano donare in corrispondenza del valore di un caffè. Sono stati raccolti circa 9.500 euro che andranno a coprire alcune spese della sesta casa di ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo. Quante sono le persone ospitate nelle case di ABC e come funziona? ABC ospita gratuitamente all'interno delle proprie case le famiglie che vengono da fuori Trieste nel momento in cui i bambini sono ricoverati all'interno dell'ospedale Burlo Garofalo. I bambini ospitati, le famiglie ospitate nell'anno 2023 sono state circa 190. Le case ad oggi sono 6, è stata aperta da poco l'ultima casa, proprio gli ultimi mesi dell'anno scorso, e il contributo raccolto durante la campagna Offri un caffè buonissimo permetterà ad ABC proprio di poter sostenere le spese della sesta casa. Lo sport verrà festeggiata questa sera nella sua Sappada Lisa Vittozzi, vincitrice domenica della Coppa del Mondo Generale di Biathlon sulle nevi canadesi di Kenmore. Alle 18.30 nella piazzetta antistante all'Hotel Posta, la carabiniera 29enne riceverà il saluto del sindaco e delle autorità della regione, del CONI e della FISI, prima di concedersi ai suoi tifosi che si annunciano numerosi e colorati per l'occasione. Accanto a Vittozzi ci sarà il suo allenatore personale, Mirko Romanin di Forni Avoltri, e il suo skiman, il campione olimpico di fondo, Giorgio Di Centa. Alla manifestazione prenderanno parte anche due illustri suoi compaesani, Silvio Fauner e Piero Pillar-Kotter, entrambi medaglia d'oro nello sci di fondo, il primo ai giochi di Lillehammer 1994, il secondo a quelli di Torino 2006. Ma sentiamo in questo servizio un'analisi della stagione vincente di Lisa Vittozzi. Una vittoria che ha il sapore della rivincita. La Coppa del Mondo Generale di Biathlon, che Lisa Vittozzi ha conquistato domenica sulle nevi canadesi di Kenmore, parte da quel 24 marzo del 2019, quando perse la sfera di cristallo per soli 22 punti, strappata dalla compagna di squadra Dorothea Wierer. Prima o poi quella coppa me la riprenderò, disse ai nostri microfoni non molto convintamente. Purtroppo per lei invece iniziò un periodo più difficile della sua carriera. Archiviato nel 2022 il disastro olimpico di Pechino, ricominciò a piccoli passi a fare podi e a ritrovare fiducia in se stessa, grazie all'aiuto di un mental coach e di un nuovo allenatore personale, Mirko Romanin. A dicembre di quest'anno l'avevamo incontrata durante un allenamento e ad una precisa domanda sulle possibilità che aveva di conquistare la Coppa del Mondo Generale, la carabiniera rispondeva così. Quest'anno il livello si è alzato ancora rispetto allo scorso anno, quindi sarà un'impresa difficile, però ci si può provare. La sua Sappada l'aspetta martedì. Lì, oltre ai suoi tifosi, ci saranno due corregionali che la Coppa del Mondo Generale l'hanno già vinta nello sci di fondo, Manuela Di Centa e Gabriele Paruzzi. Un grandissimo risultato anche di squadra, dove vede anche mio fratellino Giorgio come skiman, e quando si vince sempre in squadra. Vincere la Coppa del Mondo non è la fortuna di un giorno, ma è la capacità di gestire alla perfezione una stagione intera. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Sella Nevea al via le finali di Coppa del Mondo di sci paralimpico che porteranno oltre 300 persone in regione. Chiuso anticipatamente causa caldo il comprensorio di Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di sci paralimpico prevista tra due nazioni, Italia-Slovenia, si tiene interamente a Sella Nevea, dove, sempre causa condizioni neve, è stato rimodulato il programma. Si inizia già oggi con il gigante, domani giornata di pausa e allenamenti, e poi il 21 di nuovo gigante, il 22 slalom, il 23 day off, il 24 ancora gigante, il Super G sarà lunedì 25 marzo con diretta su Rai Sport dalle ore 10. A organizzare la Coppa del Mondo per conto della FIS, Sport for All, l'associazione di Monfalcone che da 10 anni si impegna a promuovere l'inclusività nello sport per persone con disabilità fisica. Gli atleti presenti sulle montagne del Friuli Venezia Giulia vengono da tutto il mondo, a mancare però sono gli sportivi da Mosca. Andrea Olivetti, presidente. La Russia non è compresa, provengono da tutto il mondo, sostanzialmente un mondiale, quindi oltre 20 nazioni. Questi ragazze, ragazzi e ragazze hanno un'età tra i 20 e 40-45 anni, quindi uno sport che permette poi il continuare una sfida continua contro se stessi, contro la disabilità, che in questo caso è vista in un modo sicuramente diverso. Coinvolte anche le scuole della regione, tra il pubblico molti studenti degli istituti superiori. Ospitali per una giornata con noi per capire il valore del volontariato e il valore di atleti paralimpici, perché ricordiamoci sempre sono dei grandi atleti paralimpici. Tra i campionissimi in gara Federico Pellizzari, Giacomo Bertagnolli e la monfalconese Martina Vozza, atleta olimpionica ipovedente, al suo fianco in qualità di guida esperta Ilenia Sabidussi. Sabato sera evento, nell'evento la cena al buio. Avremo modo in quel momento di essere serviti da ragazzi non vedenti dell'Unione Italiana Ciechi, quindi cercare di capire, di provare determinate sensazioni legate al fatto che effettivamente anche nelle cose più semplici non riesce a vedere. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Non più elitario, il golf conta in regione un numero crescente di appassionati, con un'importante ricaduta anche sul turismo. Cresce costantemente il numero dei giocatori di golf in Friuli Venezia Giulia. Sono circa 2.500 gli affiliati alla Federgolf italiana che frequentano gli 8 green regionali, strutture aperte tutto l'anno, tranne quelle di Tarvisio e Sappada, che in inverno si trasformano in piste da sci alpino e di fondo. Uno sport all'aria aperta, basta munirsi di una mazza e di alcune palline e seguire i consigli degli amici più esperti. Ho cominciato da qualche mese, da settembre, e abbiamo scelto questo sport per la compagnia, per l'aria aperta. Per imparare più velocemente ed arrivare a un livello più alto, ci si può affidare ai maestri e agli istruttori della Federgolf. Roberto Millier, maestro federale Golf Pordenone. È uno sport che si può praticare dai 6 anni fino ai 100. Assolutamente, non preclude nessuno sforzo fisico. Una passione nata anche osservando i grandi eventi televisivi del golf. Dario Scotto, presidente regionale della Federgolf. Noi crediamo che col grande investimento in termini di denaro e anche di impegno dall'aver portato la Ryder Cup abbiamo messo le regioni e i campi in condizioni ottimali. L'anno scorso ci sono stati oltre 50.000 passaggi di giocatori provenienti da oltre confine, austriaci in particolare. Scegliamo sempre Grado, è una delle prime mete della stagione. Qui a marzo si sta già bene, i nostri campi in Austria sono ancora coperti dalla neve. E i circoli si sono organizzati per dare il massimo dell'ospitalità ai giocatori. Riccardo Zanette, presidente dell'ASD Golf di Pordenone. Un turista molto importante, sicuramente per le sue capacità di spesa, genera un indotto positivo per tutta la regione. Da molti anni offriamo pacchetti specifici. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti prima di chiudere. Il 25 marzo 1944, 12 carabinieri vennero trucidati dai partigiani titini nei pressi dell'altopiano di Malga Bala, ora in Slovenia. In vista dell'80° anniversario dell'eccidio, l'amministrazione comunale di Fiume Veneto, con la sezione locale dell'associazione carabinieri, ha organizzato una conferenza con il giornalista Antonio Russo alle 18 nella biblioteca cittadina. In collaborazione tra Università delle Libertà e Libreria Friuli di Udine, per il ciclo di lezioni conferenze, appuntamento in via dei Rizzani alle 18 con la conferenza I genocidi e massacri dimenticati del XX secolo con Claudio Giacchi, già docente di filosofia e storia nei licei. La leggenda nera di Maria Montessori, la grande pedagogista italiana fra modernismo, fascismo e teosofia, conferenza alle 18 all'Antico Caffè San Marco di Trieste con Andrea De Sardo. Malattie di fegato e stile di vita è la conferenza della professoressa Saveria Lori Crocè a Trieste alle 17 nella sala conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise. E sempre a Trieste alle 20.45 nella sede dell'Opera Figli del Popolo in Largo Papa Giovanni XXIII il professor Vittorio Di Maso, dirigente responsabile della nefrologia e dialisi dell'area giuliana, terrà una conferenza sul tema Il rene, questo sconosciuto, funzioni, problematiche e cure. Un fantasy triestino sarà presentato oggi alla libreria Ubic. Alle 18 Lucrezia Zerovaz presenterà il suo romanzo d'esordio Ida Corrigan, la rivolta dei draghi, un fantasy pensato per tutte le età. Artigiani in festa anche quest'anno a Chiopris Viscone. Alle 19 si terrà il 30° incontro Gli artigiani e il mondo del lavoro in occasione della tradizionale festa di San Giuseppe. Dopo la messa nel capannone seguirà la tradizionale cena con Confartigianato Imprese Udine. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Andrea Fontanot e Viola Romanese. In segreteria ha collaborato Cristina Polselli. Da Daniele Lettig e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.